Radio 24 Reportage. In sala parto di Roberta Pellegatta. Sono Stefania Zorzan, sono un'ostetrica e sono la responsabile coordinatrice dell'area ostetrica ginecologica della Mangiagalli di Milano. Dove ci troviamo in questo momento? Nell'area del parto della Mangiagalli, dove nascono mediamente dai 6.500-7.000 bimbi all'anno. E in questo momento, come puoi ben vedere, chi non ci vede ma lo può immaginare, c'è un corridoio dove ci sono una decina di mamme in altri spazi, altre che stanno aspettando di andare in camera dopo il parto, stanno aspettando che si liberi posto letto. Noi in questo periodo abbiamo super lavoro, come maggio-giugno, come di solito, forse super lavoro in questo periodo è anche accentuato da queste grandi polemiche che ci sono nei vari ospedali rispetto all'evento parto, l'evento cesareo. Periodo sicuramente molto difficile per le donne, la scelta sul dove partorire. È difficile perché in Italia non tutti i punti nascita si rivelano all'altezza della situazione. La cronaca degli ultimi mesi purtroppo ce lo insegna: errori umani, liti tra ginecologi, criticità strutturali e finanziarie. Una situazione che ora è monitorata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario. Sui punti nascita in Italia è stato infatti aperto un filone di indagine apposito. L'inchiesta, in corso d'opera, si concentra in particolare su quei punti nascita con numeri di parti nettamente al di sotto del livello indicato dall'OMS, su quelle unità di terapia intensiva neonatale non adeguate a far fronte alle emergenze e sui motivi dell'eccessivo ricorso al cesareo. Partiamo da quest'ultimo punto. In Italia la percentuale dei cesarei, 40%, supera di oltre il doppio la soglia fissata dall'OMS, che è del 15%. Il nostro è un record quasi assoluto, come noi solo in Messico, peggio di noi solo il Brasile. In regioni come Sicilia e Calabria poi la percentuale supera il 50%, in Campania schizza oltre il 60%. Walter Ricciardi, dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica di Roma. Può accadere perché il medico ha timore, diciamo, di incorrere in denuncia di cattiva pratica da parte dei pazienti o della famiglia dei pazienti e quindi si ipercautela attraverso una medicina cosiddetta difensiva. E questo, diciamo, è derivante dal fatto che l'Italia, non a caso con il Messico, è l'unico paese che prevede per l'errore medico il codice penale. Quindi i medici molto spesso hanno timore di essere denunciati penalmente e quindi preferiscono cautelarsi. Quindi questo è il primo elemento molto spesso taciuto. Il secondo sono elementi di carattere, come posso dire, finanziario o commerciale, perché il taglio cesareo è remunerato molto di più rispetto al parto fisiologico, è un parto più comodo, diciamo, nel senso che può essere programmato e quindi anche in questo caso naturalmente molto spesso si ricorre al parto cesareo anche quando non ci sarebbe bisogno, non soltanto per motivi, come posso dire, di cautela, ma anche per motivi di opportunismo. Da un lato dunque il business legato ai cesarei, dall'altro il timore nel seguire un parto naturalmente. Ma com'è possibile che i ginecologi si sentano più sicuri nell'operare, visto che è dimostrato che un parto fisiologico è meno rischioso di un cesareo? Sì, per la donna e per il bambino sì, per il medico no, nel senso che se il medico lo sa praticare bene, il parto cesareo è un intervento chirurgico abbastanza banale, le conseguenze maggiori sono per la donna e per il bambino. Il motivo per cui i ginecologi si rifugiano nella sicurezza del bisturi è così spiegato da Ciro Guarino, direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Mi spiega lei, com'è possibile insegnare ai medici ad assistere un parto spontaneo se nei luoghi proprio dove si insegna ciò, nei policlinici universitari, la percentuale dei tali cesari, leggi per esempio il Policlinico Federiciano a Napoli, è superiore al 60%? Quel medico come si formerà? Come potrà pensare di assistere una donna in sala parto? L'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove opera il dottor Guarino, rappresenta un caso di eccellenza a livello europeo. Qui la percentuale dei parti cesarei è crollata dal 52,7% del 2004 al 17,5% del 2008. Il taglio cesareo non è indispensabile in caso di taglio cesareo pregresso. Non è indispensabile in caso di gravidanza gemellare con i due bambini con la testina giù. Prenda ad esempio la regione Campania. 61% di tagli cesarei, come farà mai a risollevarsi se non pone mano a questo argomento, cioè a far partorire i tagli cesarei pregressi? Da un caso di eccellenza del sud a uno del nord, torniamo alla clinica Mangiagalli di Milano. Qui Valentina ha appena dato alla luce la sua bambina. Ha partorito naturalmente. Ha mai pensato durante la gravidanza che sarebbe stato più comodo il cesareo? Sì, lo ammetto, però poi ho anche capito che è pur sempre un'operazione e quindi con tutti i rischi, mentre il parto naturale per definizione in teoria dovrebbe andare bene, insomma, comunque ha meno rischi. è proprio cercarsela poi e farsi un cesareo, è un'operazione chirurgica. Non conosco mamme contente di aver fatto il cesareo, piuttosto uno si auspica l'epidurale, ecco. Accanto a lei c'è l'ostetrica Stefania Zorzan, che abbiamo sentito in apertura. A lei chiediamo lumi su chi decide in sala parto. Di norma succede che se una donna è sana viene affidata all'ostetrica, però il medico, o informato dall'ostetrica o perché è presente, interviene valutando e decidendo se ci sono degli elementi che secondo lui fanno dire che non è più così normale. Da lì inizia eventualmente la valutazione più complessa fatta o in equipe o tra colleghe. Qualcuno dice che i medici non sono in grado di seguire una donna naturalmente. E così preferiscono il cesareo, con il quale si sentono più sicuri. E quindi c'è un problema di formazione. C'è un problema di formazione, ma forse anche di opinione e di convinzione. C'è sicuramente una parte della componente medica, ma non solo, che è convinta che il cesareo sia il modo migliore per nascere, perché è più gestito e più controllato. L'ostetrica cosa pensa? L'ostetrica per formazione è portata a pensare che l'evento naturale, il parto, è appunto un evento naturale. La donna sa come partorire, altrimenti ci saremmo estinti. La medicina è entrata nell'ostetrice nel 1700. Fino ad allora le donne hanno sempre partorito con grosse difficoltà, grossi problemi, è vero. Solo che la medicina nasce con l'idea di aiutare laddove c'è un problema, adesso entra anche dove non c'è un problema, a volte creando un eccesso di interventismo visto come non un danno. In realtà tutti gli eccessi fanno male. Si dice che il bambino che nasce con cesareo non soffra. Sì, c'è questa convinzione della non sofferenza. In realtà più che non sofferenza è una non fatica, ma è una non fatica che ti porta da uno stato di completo isolamento come il corpo materno, per cui tutto vattato, una temperatura, immerso nell'acqua, improvvisamente un taglio netto ti tira fuori, ti catapulta nel mondo. Per cui non c'è la fatica di arrivare nel mondo, quello sicuramente, ma se voglio scalare una montagna è meglio scalarla e non arrivarci in cima. Quindi è traumatico il cesareo per un bambino? I neonatologi ci dicono che l'adattamento è molto più sano in un bimbo che nasce spontaneamente piuttosto che in un bimbo che nasce con cesareo. Che il parto naturale sia consigliabile per la salute dei bambini oltre che delle mamme è confermato da una recente ricerca coordinata da Lorenzo Morelli, microbiologo, preside della facoltà di agraria all'Università di Piacenza. Lo si sapeva già, noi l'abbiamo dimostrato con delle tecnologie di analisi su base molecolare utilizzando il DNA, i bimbi con parto cesareo non vengono contaminati dai batteri della mamma, che sono dei batteri buoni e che sono batteri capaci, sembra, di proteggerli dallo sviluppo di allergie poi dopo nel tempo. Alla clinica Mangiagalli di Milano accetta di parlare con noi, nonostante abbia appena subito un cesareo, la giovane mamma Alessandra. In realtà è già il secondo cesareo, ho fatto il travaglio di prova, però purtroppo non sono riuscita a portarlo a termine. Quindi avrebbe desiderato un parto naturale? Sì, perché ho già fatto anche quello. Il parto naturale è meglio del cesareo, almeno dal mio punto di vista il parto naturale è stato meglio dell'esperienza del cesareo. Oltre all'abuso di parti cesarei in Italia, resta il problema, come si diceva in apertura, della scarsa organizzazione, per non dire dell'inadeguatezza di molti dei punti nascita. Giorgio Vittori, presidente della SIGO, Società Italiana di Ginecologia Ostetricia. Le spiego perché, cosa c'è sotto. Sotto c'è che il meccanismo economico, che è il motore del mondo, per la ginecologia e l'ostetricia è molto poco interessante. Un parto vale in Italia da 1.500 a 2.000 euro circa. Un appendice vale 5.000 euro. Una protesi d'anca vale 9.000 euro. E allora, se lei fosse un direttore generale con problemi amministrativi, quale struttura privilegerebbe? E su materno infantile, che ha queste criticità, bisogna, invece che disinvestire e risparmiare, bisogna ristrutturare, riorganizzare quello che io chiamo fare la manutenzione dei punti nascita. E la manutenzione dei punti nascita non può essere fatta, tra virgolette, in maniera federalista, cioè una regione assiste il parto in una maniera, la regione limitrofa con degli standard differenti. Cerchiamo di riportare le maternità ad un livello europeo. Se poi ci sono dei ginecologi che si discostano dagli standard che noi definiamo, siamo noi i primi a censurarli. Quindi nel momento in cui diamo tutti le possibilità di avere uno strumento che funziona, possiamo parlare. Altrimenti è facile andare a finire sui giornali, altrimenti è facile dire che la colpa è di questo piuttosto che di quell'altro, e poi le donne muoiono, i bambini stanno male e il ginecologo oggi chiede maggiore struttura logistico organizzativa. Parliamone. Il ginecologo dice che la preparazione che ha avuto o che desidererebbe dovrebbe essere migliore. Possibile che nel 2010 non abbiamo strumenti